L'ha detto subito perché sia chiaro a tutti quelli che ascoltano e che vogliono capire e che sono interessati a capire, che questa non è un'eccezione ma è una regola, cioè ci sono moltissime persone che vengono prese con la forza, cioè portate via contro la loro volontà e portate in cliniche psichiatriche, e le conseguenze, se non sono queste che portano alla morte, sono comunque gravi. Gravi perché non c'è solo il fatto importantissimo che viene sottovalutato continuamente, che una persona viene presa con la forza e strappata la sua vita, ma questo è un punto grave, gravissimo, e poi viene presa con la forza e strappata la sua vita non perché c'è un'ipotesi di reato, l'ipotesi di reato è collegata con la magistratura, c'è la magistratura, c'è la difesa, ci sono delle regole, per cui è tutto un altro discorso, anche se quella è una cosa che va messa in discussione. Sì. Però qui invece, a un certo punto, per un giudizio arbitrario di un medico, oppure per un giudizio arbitrario di qualcuno che chiama il medico, la persona viene strappata dalla propria vita, e questo è gravissimo. Strappata dalla propria vita non perché ha fatto qualcosa di male, ma soltanto perché ci sembra che il suo pensiero non sia un pensiero che corrisponde a quello degli altri. Questo è un aspetto. L'altro aspetto più grave è che se si prende una persona con la forza per costringerla ad andare da qualche parte, si dichiara nello stesso tempo che quella persona non è in grado di decidere da sé. Allora gli si toglie il diritto di decidere sulla propria vita, e tutto questo senza particolari spiegazioni, cioè soltanto per l'idea di qualcuno che vede la persona strana. Queste due cose gravissime, strappare senza nessun procedimento giuridico la persona al proprio ambiente e svalutarne il pensiero fino a ridurre la persona che deve essere condotta da qualche parte perché non è in grado di decidere da solo. Queste due cose gravissime passano nascoste, si parla continuamente in modo o appunto poco informato o ipocrita di superamento dei manicomi. Devo dire subito, perché sia chiaro al 100%, io ho lavorato con Basaglia, che Basaglia non ha mai preso posizione, né hanno preso posizione i basagliani contro il ricovero obbligatorio. Ora, il ricovero obbligatorio, che ha queste caratteristiche, è il manicomio. Il manicomio è un luogo che può essere un ospedale civile, può essere all'ospizio, può essere nei vecchi istituti, non importa mica dov'è, non è il luogo che conta. Il manicomio è la possibilità di decidere che una persona non è in grado di provvedere a se stessa, di prendere le sue decisioni, e cade in mano degli altri in modo arbitrario e non riacquista più poi la sua possibilità di decidere, nel senso che ormai è chiaro socialmente che si decide al posto suo. Questo è il discorso, non il superamento dei vecchi manicomi, che non significa assolutamente niente. Non significa niente, non perché i manicomi non siano importanti, ma perché se i campi di concentramento o campi di sterminio sono esistiti perché c'era l'idea dell'ebreo o l'idea dello zingaro, certo, o l'idea del comunista che doveva essere eliminato. Più grave è quella dell'ebreo o dello zingaro, nel senso che venivano eliminati anche i bambini. Naturalmente i campi, non è che si dice superiamo i campi di concentramento, certo, si dice combattiamo contro il nazismo, combattiamo contro i pregiudizi sociali, combattiamo contro una società che non rispetta i suoi cittadini, combattiamo con una società che si definisce la nostra democratica e invece un cittadino può essere ad arbitrio portato via con la forza e non si può difendere perché qualunque cosa dice non viene ascoltato perché si pensa che le cose che dice non sono importanti o non sono logiche. Certo. Allora, o si affronta questo problema, e io lo dico non per teoria, io l'ho affrontato addirittura nell'altro secolo, purtroppo non sono più giovanissimo, negli anni 60, io ho cominciato nel 1966-67, fino al 68, poi anche in seguito, poi nel 68 sono andato appunto a lavorare con Cotti e nel 69 con Basaglia. Io nel negli anni 60 dell'altro secolo avevo già deciso che i ricoveri obbligatori non debbono esistere, e soltanto se si aboliscono i ricoveri obbligatori approvati legalmente, soltanto allora si inizia a fare un discorso nuovo. E naturalmente siamo a zero. E ci sono delle persone che in questo secolo, già avanzato, come appunto alcuni medici che hanno parlato, non so, che hanno detto che il trattamento sanitario obbligatorio, che significa ricoverare una persona contro la sua volontà, va regolamentato. Sarebbe come dire, certo, appunto, sì, che la condanna a morte non va abolita ma va regolamentata. Devo dire che si parla appunto giustamente di tortura e di omicidio, perché di tortura e di omicidio si tratta, però appunto queste sono conseguenze. Se a un medico si dà la possibilità di decidere che qualcuno, perché magari ha detto che la notte parla con i diavoli, va bene, che qualcuno può essere preso facendo un certificato con la forza e portato dentro, se si dà questa possibilità poi tutto il resto è una conseguenza, perché il mettere una persona nelle mani degli altri, dando agli altri pieno potere, significa portarla in una condizione necessariamente di svantaggio, in cui il fatto di essere maltrattata e a volte anche uccisa è una conseguenza che fa parte di questa impostazione, non è una conseguenza strana. Io ho lavorato a Gorizia con Basaglia, ho lavorato a Imola in due manicomi, ho visto manicomi in Italia e all'estero. I luoghi dove le persone vanno lì dentro con la forza perché si decide che non sono capaci di provvedere a se stessi e di pensare con la propria testa, sono luoghi così e lo saranno sempre. Allora o la smettiamo di impostare i problemi in questo modo e si va avanti, o continuiamo così e tanto vale dire che siamo come i nazisti. Certo. Giorni fa ho sentito in un documentario che in Norvegia, dopo la seconda guerra mondiale, siccome c'erano molti bambini che, come succede, erano nati da donne norvegesi e da soldati di occupazione, che in questo caso erano i tedeschi, questi bambini nati da un rapporto tra i tedeschi di occupazione e donne norvegesi sono stati messi in manicomio, sì, sì, perché si riteneva, data la loro origine, che era criticata politicamente, diciamo così, data la loro origine, non si ritenevano dei cittadini norvegesi e si mettevano da parte. E questo è Thomas Sats, volevo dire, che purtroppo è morto da poco tempo e che è quello che ha aperto tutta la critica a questi orrori di cui stiamo parlando. Certo. Thomas Sats ricorda che gli schiavi delle piantagioni che scappavano per liberarsi venivano dagli psichiatri ritenuti malati di mente, cioè una malattia che era questa fuga dalle piantagioni. La ricerca dell'identità era una malattia. Esatto. O si comincia a ragionare in un altro modo, e cioè si considera che gli uomini che fanno scelte diverse e hanno pensieri diversi, perché deve essere così, vanno rispettati tutti quanti, specialmente i più deboli, quelli che hanno meno difese. O si parte da questo nuovo discorso, oppure non si conclude niente, si continua a fare le stesse cose e poi anche i processi non servono a nulla, perché finiranno per dargli forse nessuna pena, forse una piccola pena, ma il problema non sono neanche loro, perché è anche poco intelligente processarli, perché fanno quello che il sistema gli ha indicato, il che non è molto glorioso, ma non è neanche un reato. Certo. E devo dire che qui in Italia c'è l'equivoco che si è detto che i manicomi non ci sono più. Intanto prima si è detto che il problema sono i manicomi, poi si è detto che non ci sono più, poi ogni tanto si vedono queste cose, anche se succedono spesso in continuazione. Io conosco un'infinità di persone che hanno passato guai per questo aspetto qui, ma poi immaginati te sulla tua pelle, o io sulla mia pelle, o i cittadini che ci ascoltano sulla loro pelle, cosa significa che a un certo punto si sente bussare alla porta, sì, e arrivano due infermieri che ti dicono che te ne devi andare via con loro, e se tu ti opponi ti portano via con la forza. Sembra l'inizio del processo di Kafka. Sì, infatti, sì, lo stesso Kafka dice che i due signori che portano via K lo stringevano ai fianchi come si fa con i malati, e intende i malati in senso psichiatrico naturalmente, certo, perché gli altri è inutile stringere ai fianchi. Dunque, il problema è che se si accetta questo fatto, che ci sia una legge che prevede che un cittadino possa essere sequestrato per il suo pensiero, tutte le altre sono conseguenze che non si possono evitare. Certo. Ecco, poi ci può essere anche lo psichiatra buono, sì, sì, ma non cambia niente. Se io vengo portato, certo, con la forza da qualche parte, da quel momento io non sono considerato un uomo che pensa, per cui se mi tratta male, mi torturano, mi uccidono, malissimo, ma anche se mi tratta bene sono veramente tagliato fuori lo stesso. Certo. Ah, è stata abolita la persona. Un'ultima domanda. Pronto? Allora, mi sente adesso? Pronto? Purtroppo c'è questo disturbo. Vabbè, sparisce la voce. Adesso forse? Adesso? Sì. Allora, dal video si vede che quest'uomo, Mastro Giovanni, soffre molto. Ecco, che tipo di sofferenza induce il meccanismo del legare al letto di contenzione? Se si puoi far, perché è difficile immaginarselo, chi non l'ha provato. Sì, no, io sono arrivato a Imola nel 1973 e sono entrato su mia richiesta nel reparto dove erano tutti legati, cioè il reparto del 14 donne, sì, dove erano tutte legate, tutte quante, e ho passato un mese, notte e giorno, per slegarle una per una, e poi dopo non si reggevano in piedi, perché una persona che non si può muovere, un medico dovrebbe sapere che gli si atrofizzano i muscoli e che gli si indeboliscono gli organi. Io ho dovuto lavorare per rimetterle in piedi, per riabituarle a girare per il mondo, avevano paura di tutto. Poi dopo, col tempo, siamo andati anche al Parlamento Europeo, siamo andati a Vienna, siamo andati a Strasburgo, siamo andati a Roma, siamo andati a Venezia, a Firenze, dopo. Però l'ho riprese e lo so cosa vuol dire. Però immaginiamocelo su noi stessi, immagina di cosa significa essere legato in un letto con le contenzioni, le gambe e le braccia, o ancora peggio, ugualmente la camicia di forza, o altri mezzi anche che ci sono. Cioè, a un certo punto, per esempio, ti viene un prurito, oppure ti dolgono i muscoli, oppure appunto ti viene il mal di stomaco, che fai? Uno desidera di morire, certo, desidera di morire il prima possibile, perché si è messi in una condizione contraria a tutti i diritti dell'essere vivente, una condizione che non dovrebbe esistere in nessun pensiero. Jack London ne parlava per il carcere, sì, sì, della contenzione, che è una cosa terribile. E infatti viene usata anche nelle carceri, nei manicomi giudiziari. Ma che dei medici vengono a dire che curano le persone, non si sa poi di che cosa, tenendole legate a letto, come si è visto di Mastro Giovanni. Mastro Giovanni rappresenta il simbolo di tutti quelli, sì, che sono in quella condizione. Che un medico ci venga a dire che la castrazione è una terapia, che l'elettroshock è una terapia, che l'insulina coma, andare a finire in coma, è una terapia. Questa è una cosa così, così incredibile, che soltanto il fatto che sia vero ci permette di... Ma se uno venisse appunto da un'altra cultura direbbe: ma chi sono questi qui? Chi sono questi uomini che dicono di curare le persone riducendole in questa condizione? Eppure sembra che siamo strani noi che ci si oppone a tutte queste cose. Sembra che siano cose naturali. Naturalmente tutti sappiamo che quando una cosa è corrispondente al conformismo viene considerata logica, per cui appunto infatti quando bruciavano le streghe nelle piazze, o quando appunto squartavano le persone e altre delicatezze, il popolo andava a applaudire o a divertirsi, andava lì a fare merenda per divertirsi, era uno spettacolo come dopo sarà il cinema. Allora cerchiamo di ragionare, liberiamoci dal conformismo, vediamo le cose come sono, e non mi sembra che ci resti molto spazio per questi individui qui, ma va affrontato il discorso alla radice, perché sennò si fa il processo, si dicono alcune stupidaggini e poi tutto continua come prima. Certo. Continua come prima. Senti, tu ti sei trovato, l'hai raccontato, no? Nel soprattutto a Imola e anche altre parti, proprio diciamo. Pronto? Mi senti adesso, Annaggia? Sì, un pochino, sì. Cioè, dicevo, ci puoi dire due parole del modo diverso? Come? Del modo diverso? Cioè, aspettiamo. C'è disturbo, sì. A volte la voce sparisce quasi. Adesso? Ora sì. Ora beh, ecco, ho cambiato il microfono. Dunque, dicevo, tu ti sei trovato a operare in strutture appunto in cui al TSO, alla contenzione, anche quella farmaceutica e quella ovviamente fisica, ha rifiutato queste e hai usato un altro metodo. Qual è stato il metodo? No, non è un altro metodo, se mi permetti. Sì, infatti. Cioè, ci sono dei metodi per uccidere, esatto, e dei metodi invece per difendere la libertà delle persone che non hanno niente in comune. Appunto, per cui io non ho usato l'altro metodo, sono entrato in un altro mondo, cioè sono passato, io ho cominciato a Firenze negli anni 60 a evitare gli internamenti in clinica psichiatrica perché ho capito che erano un'ingiustizia, come ho già detto, no? Io mi ricordo che quando ero ancora studente vidi portare via da una casa famiglia una donna ex prostituta che aveva avuto un conflitto con una del personale. Cioè c'erano leticate, ma niente di speciale, soltanto che decisero di chiamare appunto gli agenti del manicomio e la donna appunto che era ospite di questa casa famiglia fu portata via. Io ero studente e mi opposi, ma non potetti fare niente. Da quella volta ho sempre pensato che questa abitudine di portare via le persone, che poi sono le persone che hanno meno potere, perché è chiaro, le persone che hanno potere non rischiano niente, oppure rischiano se sono nelle mani di chi ha più potere di loro, certo. Per cui il figlio dell'industriale può finire in manicomio se il padre che ha più potere ce lo manda. Non esiste che vada a finire, per quanto strana, in manicomio una persona che ha potere, perché nessuno si permette di interferire con la sua vita. Invece se una persona non ha potere può essere in tutti i modi, può essere anche la persona più docile di questo mondo, dicono appunto che è passiva se è docile e la portano via lo stesso, per cui qui c'è appunto un rapporto di potere, chi ha più potere decide della vita di chi ne ha meno. Quello che è grave è che la nostra società prevede delle leggi a questo proposito. Allora noi non dobbiamo chiedere l'abolizione del manicomio perché è una stupidaggine, dobbiamo chiedere l'abolizione di questa legge qui. Perché poi uno, se sceglie da sé, può andare per esempio in medicina, uno può andare dal medico ufficiale, può andare dal medico omeopatico, certo, può andare a farsi l'agopuntura, certo, può andare anche se vuole dal mago o dalla fattucchiera, ognuno va dove vuole, ma deve scegliere lui, non ci deve essere una legge che ti impone di sottoporti a certi trattamenti. Questa va tolta, se si toglie questa legge si prende un'altra strada, finché c'è questa legge siamo nella vecchia strada e il dire che non ci sono più manicomi è una pura bufala e anche una stupidaggine. Certo, da quanto dici tu è chiaro che il problema diventa non un problema medico ma politico, cioè quindi il problema è politico, è tutto politico. Il problema della libertà è un problema politico. Certo, quindi, cioè, e il quindi... problema medico non c'entra, il problema, esatto, è il dare a dei medici questi poteri. Esatto. Appunto. Quindi è un problema su cui tutte le persone, perché molti ti dicono ma io che ne so, è un problema specifico. No, è un problema che ci riguarda tutti, esatto, perché un cittadino, sì, può sempre essere, prima di tutto un cittadino deve interessarsi della libertà anche degli altri cittadini, perché non si difende la libertà a livello individuale, la libertà si difende per tutti o non si difende, cioè, affatto. E poi appunto nessuno di noi è al sicuro. Perché ognuno di noi può essere, esatto, può essere a un certo punto da qualcuno che ci tiene in mano perché ha più potere per il fatto che si pensa in un certo modo. Volevo dire, per venire nello specifico di Francesco Mastro Giovanni, Francesco Mastro Giovanni era un anarchico e c'è tutta una storia lunghissima degli anarchici che sono stati internati perché anarchici, certo, allora poi si trovano qualsiasi scusa e si buttano dentro, per cui è una storia vecchia che si ripete e si ripeterà sempre se non togliamo al se non togliamo allo Stato questo potere, se non togliamo questa legge, che è una legge liberticida. Completamente. Senti, un'ultimissima domanda, una valutazione. Secondo te si sta parlando un po', forse sicuramente più di qualche anno fa, di questi problemi? C'è la possibilità che a livello generale, insomma, si prenda coscienza per fare questo salto, che dicevi tu, questo salto? Io lo spero che ci sia la possibilità. L'ambiente politico ora, no, più fascista che altro, non lascia molte speranze, appunto, però naturalmente è una battaglia politica, questa è una battaglia per la libertà. Certo. Cioè, che Sazza lo dice benissimo, parla di stato terapeutico, intendendo con stato terapeutico lo stato che con la scusa della salute controlla le persone. Infatti. Ha scritto anche un libro a proposito. Sì, sì. Tra l'altro Sazza, che ha scritto una grandissima quantità di libri, che è una delle persone più intelligenti che io abbia conosciuto. Io appunto gli dicevo sempre che era il Voltaire dei nostri tempi. Sartre in Italia è pubblicato pochissimo, conosciuto quasi per niente, e qui in Italia credono che noi sulla critica alla psichiatria si sia avanti, invece siamo indietro. Più indietro ancora, perché si crede di essere avanti. Certo, infatti. È l'ambiguità, certo, sì. Perché il discorso della 180 viene, passa come qualcosa che non lo era, in realtà. Era l'inizio di un dibattito, poteva essere. Per quanto riguarda Sazza, perché non ne parla nessuno, voglio parlarne anche concretamente. Certo. Lui diceva ironicamente, a proposito di normalità, che secondo lui la norma è una ragazza, lui è di New York, la norma è una ragazza che abita a Brooklyn, perché il problema, per esempio, importante non è chiedersi che cos'è la follia, certo. Il problema importante è chiedersi che cos'è la normalità, infatti. Poi ognuno risponda come vuole. Infatti. Va bene. Grazie Giorgio del tuo contributo. Ciao, buona giornata, ciao.